Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti i nostri ascoltatori e naturalmente ascoltatrici, un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Ah, stasera abbiamo un ospite graditissimo e che aspettavamo veramente con ansia di potergli offrire tutta l'ora a disposizione. Vuoi annunciarlo tu, Antonio? Naturalmente un cultore della trevisanità, un cultore eccelso della trevisanità, che è l'architetto Giorgio Fantin, in arte Ciccio per gli amici. Buonasera. Buonasera. E benvenuto. Grazie. Ma allora, a te Antonio. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che speriamo vogliano accompagnarci anche quest'anno in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. E ricordiamo il nostro sito internet, che è bluradioveneto.it, e la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download della trasmissione alla posizione podcast. Naturalmente non possiamo dimenticare un saluto al nostro regista Eddy e al nostro coordinatore Mirko. Eccoci. Allora, prima di dare la parola al nostro Giorgio, ci ascoltiamo una canzone allegra. È cantata da Alberto Lionello e si intitola La La La La La La. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Eccomi ancora qui con voi per cantare insieme questo ritornello. Nel tuo cuore scenderà la più grande serenità. Se canti quest'allegro ritornello, sempre quello che fa così. Anche tu, prova un giorno a guardare in su e scoprirai le rondini nel cielo che volando cantan così. Pensa che si tratta di una sillaba semplice, cantala e diventa tutto facile, facile. Splende il sol, brilla il mar, tutto intorno più bello appare. Se canti quest'allegro ritornello, sempre quello che fa così. Vogliamo cantarlo insieme adesso questo ritornello? Nel tuo cuore scenderà la più grande serenità. Se canti quest'allegro ritornello, sempre quello che fa così. Prova un giorno a guardare in su e scoprirai le rondini nel cielo che volando cantan così. Pensa che si tratta di una sillaba semplice, cantala e diventa tutto facile, facile. Splende il sol, brilla il mar, tutto intorno più bello appare. Se canti quest'allegro ritornello, sempre quello che fa così. La la la la, bella, vero? Allegra? Molto. Ecco. Bene, adesso diamo la parola al nostro Giorgio Fantin. A lei. Divento rosso. Sì, dai. Tranquillo. Mi volevo una volta ricordare che ho trovato Antonio a Roncade, prima mi passa domenica di settembre, la Fiera di Iosei e non solo. La Fiera di Iosei, io faccio la corsa della festa dell'Oca per i bambini lì, e quest'anno Lucio non aveva dato il permesso perché non aveva tempo di visitare gli animali, e allora abbiamo inventato un'ora di disegno di bambini delle oche, le abbiamo premiati tutti e ci siamo divertiti. Invece la Jesi l'ho trovata con una corsa ancora a giugno con i camerieri, una domenica mattina. Rievocazione dei camerieri, che adesso dovremo portare più a compimento con più forza. Ha vinto un ragazzo giovane. Ha vinto un ragazzo giovane, alto, con gamba, di Pino della Piazza, e aveva vinto quell'anno scorso. Ha sempre quello? Perché sa camminare e portare bene il vassoio. C'è niente da fare. Perché L'arte di camerieri, esatto, è una casta. Esatto. Mi sono divertita perché è stato simpatico, una festa simpatica. Sì. È sempre movimento, allora è sempre bello. Io vorrei accennare a due cose, perché sono stato, parliamo sempre di noi altri, che a una festa dell'Accademia della Cucina Trevisana, che ha presentato la scorsa settimana ancora una ricetta che è sopa becchera, che chiama sopa becchera, sopa coada non esiste, ma sopa coada e sopa becchera esiste. Sì. Infatti. Però non è una ricetta da che si mangia facilmente, non c'è. E era gli amici macellai, il mercoledì delle ceneri andavano in gita a mangiare il pesce a Venezia, in qualche parte di Venezia, e fra loro si mettevano d'accordo chi che faceva sopa becchera fra le ori. Ah. E era tomba in piazza del San Vito, che mi conoscevo, ma Piero Sardi, che è ancora vivo e vegeto e bravo, là a Campana, in via Pescheria, proprio Pescheria, sì, via Campana. No. Strada del Cavallino, via Palestro. Ah, sì. Via Palestro, la si chiama. E dopo che c'è Agostino Stecca, che c'è a Carnezzano, che adesso c'è il fiolo invece che ha la beccheria, la macelleria in via Borgo Cavour, e sì, porta avanti questo discorso. Ma c'è una ricetta di tutte frattaglie, piccole cose, robe che c'è avanzate, come polpette, tutti gli avanzi. E dopo bisogna saperla cucinare, che è sempre fra una e altra, che la ricetta può essere la stessa, ma sempre che vuoi, sempre a mano. Grande differenza, esatto, cuoco. È il soramanico. Comunque l'Accademia, che ha già notificato con notaio la sopa coada e anche il tiramisù, ha notificato anche questa sopa becchera, e se è giusto, ormai abbiamo 100 persone, perciò mi parla all'Accademia. Un'altra avventura. Intanto la maggior parte non li conosce. Non si conosce. Ma in che cosa consiste? Come cosa? Frattaglie? Non sono neanche frattaglie, sono tutti pezzettini di carne, sì, di parte di costa, sì, di coa, di petto, tutte cose tagliate a pezzettini, a piccole schegge quasi dalla bestia. Ah. E cucinate. Farla pipare 5 ore, anche di più, perché adesso è una zuppa forte. Con che il primo, cosa? Secondo e terzo. Sì, sì, ma dico, con che cosa? Con riso? Con brodo. Ah, brodo. No, solo carne. Solo carne. Senza verdure, Si è aggiunta un po' di carote, delle cose, ma proprio solo per insaporire leggermente. Insomma, proprio carne pura. Sì, è sopa becchera. Sopa becchera. Becchera è il macellaio. Il macellaio, certo. È la vecchia tradizione. Allora assaggeremo anche quella prima. Sì. Perché insomma la curiosità, sì, dicono che sia femmina, ma è anche maschio. Bisogna, ma la curiosità è curiosità. E dopo, venerdì scorso, sta l'inaugurazione, che sabato va a cominciare l'ingresso alla mostra a Santa Caterina, io considero un grande personaggio trevisano e amico, scontroso con tutti, anche con gli amici, ma bravo. Renato De Giorgis fa una mostra di pittura, grafica e fotografo, perché ha fatto delle fotografie eccezionali, a Santa Caterina. C'è una mostra da andare a vedere. Trevisano, che ha vissuto, De Giorgis è un nome poetico, cioè di pittore, ma lui si chiama Renato Basso, che è fratello poi di Basso, che è venuto anche da voi. Di Tony Basso, venuto da voi. Sarà De Giorgi è il nome d'arte. Quindi, lui era, lavorava col fratello, dava una mano anche odontoiatra. Sì, odontoiatra. E queste sono notizie. Però mi voglio cominciare, siccome storie dei noati è storie, volevo partire con una cosa. Allora, qualche mese fa mi arriva un pacco in studio. Lo apro, non ordino mai niente in studio, mi fiore che ordina tutto, è tutto rivisto. E lo apro e trovo un libro francese. Portrait. Italy, anni 70, di Francesco Moretti, col quale io nel 78, che non lo conoscevo neanche, siamo conosciuti, ho fatto con lui un libro di Treviso, ho scritto. Nel 78 l'ho chiamata Treviso l'ultima perché ho detto morti questi, è morta Treviso. Lui era da Conegliano, non conosceva Treviso e non beveva. due peccati mortali. È un eccezionale perché abita a Parigi, ha 50 persone sotto di lui che lavorano, gli fa scenografo, fa scultore, fa di tutto, adesso è bravissimo. E ci siamo conosciuti 3 mesi così, andare per strada, aprile, maggio, giugno, neanche forse così, 2 mesi e mezzo, 2 mesi, settembre, ottobre, perché volevamo arrivare per sotto Natale, abbiamo fatto un libro di fotografie, che lo volevo, chiamiamolo così, per strada, non per ufficio, cioè che prendesse il personaggio sul posto di lavoro, sul che posto captasse la vera anima, dove era. Esatto. E difatti lui ha lavorato anche a quel grand'angolo, prendendomi delle figure così. E mi piacerebbe parlare di questi personaggi, perché di questo libro qua non c'è traccia. Hanno fatto una mostra ai paraggi e sono andato all'inaugurazione, che è arrivato giù anche lui, ma dopo sono dovuto andare 2 volte, mi sono offerto di andare, perché il libro non riportava nessun nome di chi era fotografato, perché i trevisani e li conosceva, sennò bisogna andare all'indice a vedere se chi era la pagina. La faccia. Io ho fatto così, perciò l'ho scritto, soltanto tutti i nomi e cognomi. Certo, è una cosa, un'operazione visto, proprio di ricostruzione completa. Mm-hmm. Poi questo libro in francese, che ha solo una copertina, ha solo una presentazione di una Chantal in francese, mm-hmm. ma ha delle fotografie in bianco e nero che sono eccezionali, insomma, mm-hmm. che il mio fatto su 20x20 non porta a questo, cosa è una cosa bellissima, però vorrei parlare di personaggi. Perfetto, inizialmente. Benissimo. Esatto. Allora, prima però ci ascoltiamo una canzone, cantata da Andrea Bocelli, Le Feuille Mortes. Qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous. Ensemble, toi qui m'aimais, chi teme. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable Ed eccoci di nuovo in studio con l'amico, nostro amico Giorgio, per parlare di questa Treviso che c'era e che vorremmo far ritornare, almeno nella memoria. È impossibile ritornare, d'altra parte ho sbagliato anch'io dare un termine Treviso l'ultima, perché in effetti Treviso va avanti anche senza questi anche personaggi. Anche per altre strade magari. Anche per altre strade, ma senza questi personaggi ce ne trovano degli altri. Anche. Certo. Ed è una cosa bellissima, insomma, la nostra città porta questo fermento perlomeno. D'altra parte, ricordare dei personaggi come c'è su questo libro, insomma, magari parliamo di qualche nome, ma del sindaco Mazzarolli, da Alfredo Beltrame, da Giovanni Barbizan, adesso ne parleremo. Giovanni Barbizan è pittore, vero? È pittore, sì. Io mi ha regalato un'acqua forte che la tengo come una reliquia. Sì, dopo io racconterei degli episodi, ma comunque insomma vediamo di poterne parlare. Bene, procediamo. Io apro la prima pagina del mio libro, oltretutto non ce ne sono più. È un libro fatto con un'altra che io ero anch'io assieme a loro, una specie di cooperativa, ed è stato venduto subito. Noi avevamo la tipografia e il venditore e poi eravamo il circolo chiuso, però uno andava in banca a chiedere il codice, no, e ci ha chiesto gli altri e basta, allora, chiusa anche l'iniziativa. Però ne ho trovati 20 quella volta lì da Jay e li ho logicamente regalati via tutti quanti, me ne pento anche. E ne ho uno con le firme, che l'ho dato a un tipo, lo vedo se si può stampare qualche cosa, ma questo qui è nuovo. Comincio con la prima pagina, c'è una foto di Lao Mantelli con sua moglie Leona, e fotografati fuori porta di casa, che stavano in via Montello grosso modo, e in casa mia, sul piatto è scritto La porta è aperta al sole, agli amici e alla musica. Ah, è bello. E lui era un rappresentante di Guttalin, della patina delle scarpe. E si trovava in sempre su tutte le osterie qua vicino a Treviso, lui aveva le compagnie, poi saliva, a un certo punto saliva sul tavolo e suonava il violino. Oh, che bello. E tutti gli altri col Gotto Biciani manca, mi aspettarlo e a vederlo, cantava, era un personaggio. Dopo il papà di un nostro amico che giocava a rugby con noi, Lao Mantelli, un personaggio bellissimo. Lao Mantelli. Dopo c'è un certo Primo Maronilli, che è stato il mio primo datore di lavoro, falegname, porchisava come un matto, fumava figari come un matto, però io ho lavorato qui alla... In Curia avevamo fatto il letto in palissandro per il vescovo, quello era là. In palissandro. Che è un legno esotico. Rosso scuro, bellissimo, forte, molto forte. E poi lavorava per i preti, lavorava per tutti quanti. Siamo andati anche ad Asolo, a Lord, a fare. Era un mostro. Ho lavorato, è stata una settimana ai Frati del Deserto a Venezia per fare una facciata di legno che era qua, farla nuova uguale di là. Io ho misurato pezzo per pezzo, poi sono stato 2 o 3 giorni, poi gli operai da lunedì a venerdì stavano là a mangiare. Bellissimo. E facevano questo quadro. Primo Maronini è stato il mio primo falegname, mi piace del legno, mi piace tutto, insomma, dal mobile il legno vive con noi sempre, non muore mai, insomma, fino ai noci che ho mangiato domenica passata. Nelle noci. E dopo che se Nane Casadoro, che era quello che vendeva i folpi per strada, che vendeva i bowie per strada, i bowie. Si erano perso tutto quanto, che era Emma dei Tripe davanti alle beccherie, tante cose. Poi c'è un Bruno Costa poliziotto che io ho voluto fare 2 fotografie, uno vestito da poliziotto e uno in borghese. Ho detto fammi una foto anche in borghese, non te voglio in borghese, te voglio solo poliziotto. Era in questura, che mi ha dato una mano per fare un passaporto ed era però sempre vicino a questa Treviso. Era una mostra, c'era una mostra che era da mangiare, era sempre Bruno Costa, sempre volevo un quadro, Mino Fasso quadri, gli compro un cammino, dammi un quadro, era pronto un quadro. E poi chiamiamo Bruno Beltrame, no? Era Bruno del cognome Pizzolato. È quello Pizzolato. Che aveva il bar, no? No, lavorava il bar Beltrame in piazza. Ah, ecco, sì. Ed era insopportabile. Una volta mi ha dato proprio una, perché aspettavamo la porchetta di mangiare a crosta, perché era crosta gratis, allora sì. Tagliava a crosta, arrivava la porchetta eccezionale delle cose. E si metteva in mappa a mangiare per cavavia, mi ha dato una coltellata. E poi era duro con tutti i clienti, insomma. Ma Bruno era un personaggio della piazza, con tante cose così. Dopo un veterano sportivo che è morto da poco, Nani Granzotto, che era maestro di lotta greco-romana e lottatore lui prima e poi invece un grande, grande professionista. Era, l'ho sentito nominare. Era un spettacolo, insomma. Dopo cominciamo con Amelia Benvenuti. Nessuno più la conosce. Che aveva la trattoria. La trattoria, ma mi ha fatto 3 volte... E cosa della pazzia qua al teatro comunale, perché tutti battevano mano la prima volta, la seconda volta, la terza volta. Amelia Benvenuti, che era eccezionale, e c'era anche la Toti del Monte che la sentiva sul palco. E nel primo tempo siamo andati a salutarla insieme con Brisoni, che è il nostro presidente del rugby, in 2 di noi altri, e col presidente siamo incontrati con il Chirighin, il sindaco. Ah, che allora era sindaco. E allora Toti del Monte ha detto prima gli amici e poi le autorità. E detto, poi mi faceva addosso. Queste robe quasi Treviso, perché non c'è niente Treviso. Sta donna meravigliosa, Capodallino, siamo andati Dallino un giorno di Natale assieme, eccezionale. Era cosa so così. Che andava spesso lei Dallino. Sì. Penso che sia da giovane che lavorava là, ma che sia bello, che sia Gigito, che tutti qui che lavorava da lì, no? Era meraviglioso. Questa diaspora di talenti straordinari, sì, esatto. E poi era Mario del Monaco. Mario del Monaco è stato a trovarlo e si è fatto fare 7-8 fotografie, uno in trono, uno che a pianola che suonava, uno sulle scale, un altro in giardino vicino alla piscina. È una cosa meravigliosa, si prestava alla divulgazione. Alla divulgazione. Esatto, sì, quando cagava in duo la Royce l'aveva comprata a Harry, uno che giocava con altri, uno impresario, e siamo andati a Parigi con la Rolls-Royce, perché lui non era mai stato a Parigi, e mi è caseato e abusato, e dice sì, era che non ha più mosso cosa arrivava davanti all'albergo, e che una settimana a macchina, così si faccia più, mai una multa, non ha mai fatto una multa. Che straordinari personaggi. Poi ho un personaggio che era discreto, meraviglioso, Gino Giudici, che faceva al calcio, al pallacanestro e al rugby, i tabelloni fuori che le metteva in piazza, in piazzetta Moro, cioè si chiamava sempre Piazza dei Signori. Forse io l'ho conosciuto tanti. Ed era gestore del bar KO, che adesso non so cosa che sia, adesso vende in piazza Indipendenza, sotto che c'è la cosa di confezioni. Mm-hmm. Si confezionano non so cosa, perché era Vitadello una volta, ma prima mi andavo a allenarmi, andavo a correre sotto in palestra. Lui che aveva il bar ed era un posto, ed era un ritrovo di noi altri, della piazza, no? Mi cominciò ad andare in piazza per quello. Dopo sono andato a vendere giornali nell'edicola in Piazza del Grano, l'angolo di Piazza del Grano con Borgo Cavalli. È stato il primo, sì. Non in edicola, ma sulla sua stanza, aveva una stanza. Esatto. Mi pare che abitasse in via Cacciatori del Sile, se mi ricordo male. Può darsi, a quel tempo l'anno dopo è andato a abitare là in via Commedia, tuo padre via Commenda, là sulla piazzetta via Commenda. Sì, sì. Ed era conosciuto da tutti i ciclisti, da tutti i pugilatori, da tutti i motociclisti, da tutti, era bravissimo, insomma. Dopo questo Giovanni Pinareo, logicamente adesso parliamo di ciclista, Nane è compagno adesso, come che ho fotografato nel 78, insomma. Sempre lo stesso personaggio vulcanico, eclettico. Un caso di multinazionale praticamente dal basso, tascabile. Una storia di successo clamorosa. E dopo che su questa presentazione di questo libro qua, una francese che scrive sul libro in francese, che mi parla, mi ho fatto 2-3 fotografie di quelli custodi di biciclette, che non esiste più qua a Treviso adesso. Difatti. E ora che ne era San Leonardo, una no? davanti a scuola San Francesco, una era San Leonardo. San Leonardo, ricordo. Una che ne era, insomma. Ce n'era anche una in via San Nicolò una volta. A San Nicolò, sì. Ma era per tutto. Allora, la fotografia, questa in francese, scrive che Giovanni Degon, in bicicletta che con la sua moglie a fianco, ma io ho la mano sul manubrio della bicicletta, che è la roba più importante che sia con io, più importante della moglie. Vede che l'aveva messo quasi, che ha messo la mano davanti della bicicletta, perché la bicicletta era il suo. Era molto importante per lui. Sì, poi dopo ho un personaggio, Vittorio Zacchieri. Ogni domenica lui di giorno notte si tuffava dal Ponte De Gasperi, si tuffava in acqua. No. Non l'ho mai visto con una scarpa, era sempre con i sandali. E faceva i finimenti di cavalli in via Sant'Agostino. Porco cane. Era un sellaio. E eccezionale, era un altro come... le buttafuoco quasi, insomma, il suo. E che ha fatto la buttafine. Amico del papà, ma tante cose, insomma. Beh, ci fermiamo un momentino, sì, e ci ascoltiamo la canzone più moderna questa volta, cantata da Gianna Nannini, Aria. Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò. Per volare in paradisi che non ho, e non è facile restare senza più fate da rapire, e non è facile giocare se tu manchi. Solleva il mondo. Sì, portami con te tra misteri di angeli e sorrisi di demoni. E li trasformerò in coriandoli di luce tenera, e riuscirò sempre a fuggire dentro colori da scoprire, e riuscirò a sentire ancora quella musica. Eccoci di nuovo in studio. Io quest'anno non ho mai letto una poesia dell'autunno, siccome a me l'autunno piace in maniera particolare. Dai Maroni? Beh, mi piacciono, mi piace l'atmosfera. Il cambio delle foglie. E così mi è capitata fra le mani una poesia che parla dell'autunno e che veramente ti descrive l'autunno e anche le sensazioni. Chi poteva essere questo poeta se non Emilio Gallina? Emilio Gallina. Per forza impera ed è bravo, perciò. Sì. E lui ha scritto una poesia intitolata Autunnale. Se mi permettete vorrei leggerla. Volentieri. Grazie. Allora, è fulgore auro brunito il bosco e rosso di bacche alle siepi. L'estate ha maturato frutti al castagno e al selvatico melo. Scolora appena il racimolo tra sfiniti cartocci di foglie. Ha bellezza decadente l'autunno e melanconia di prime nebbie. Cadenza di foglie al sentiero. D'intorno odore dolce amaro di strame e profumo di funghi. Mi rallegra l'andare strascicato di passi sulla coltre brunita. Gioia infantile pervade l'anima, frizza nelle vene come ai tini il vino novello. Dalla piana un volo di storni accompagna voli di nebbia. A ponente un disco stranito scolora rossastro, induce al ritorno. a tradurre il sentimento di Gallina, esattamente, di Emilio, sì, grande, che salutiamo naturalmente, sì, insieme alla che mi piaceria averla sentita indietro sta qua quando abbiamo parlato scartoccio, ora si scartoccio le cose, sì. Bellissimo. Va bene, proseguiamo sì. Pure. Niente, allora, questo libro mi ha entusiasmato praticamente, perché in tempo di farlo 2 mesi più 2 mesi, 3 mesi più 3 mesi, che cosa sta, quando l'abbiamo presentato, era la prima volta che ho fatto gli autografi, no? Facevo gli autografi anche giocando, ma qua che ho fatto tutti i libri, ognuno veniva a Giorgio, fammi una firma. E ho trovato il libro della mia mamma, che mi è Moretti, che mi regà la mamma con i suoi firmi. Bellissimo. E che ne sei, dovrei parlare per esempio di Nino Sigliotto della Colonna, che ho fotografato insieme con suo moglie fuori della porta della Colonna là in via Campana. E Nino è stato un personaggio. Una volta il paron della Colonna era Bernardi, quello della Berga, e gli dice: se mi vende il peso d'oro mi metto tanto oro su una parte quanto che io pesa, perché aveva orologi di oro, aveva tutto il tempo di guerra, che aveva fatto delle mamma. Comunque questo è stato Nino, le dava scueta con De Clinton, a scueta De Clinton, a scueta De Clinton con i primi con i primi fragoetti nei torli a Rongine, a Moianza, tu proprio partì, ma te ancora a pagarmi qui il mio cobion da ieri, ero con amore, se no mi diceva cobora De, che mi ha fondato ieri a scueta De Clinton. Questo e dopo è mitico. Lui era voi che piaceva, entrava da lui e lì cosa, se no, proprio un selettivo. Dopo, ma anche ecco, sono da alle paraggi, per esempio, un personaggio, Gigi Tonon, un ingegnere che sta presidente del nostro rugby, e si è presentato, uno mi fa: sai che parla bene di mio papà. Cioè, mi parlo bene di qui, che conosco mio, e parlo bene. E il fiol di Tonon, che adesso siamo conosciuti piacevolmente. E Tonon abitava dove era il Disco Rosso una volta, abitava con ingresso da via Piazza Filodrammatici. Lì stava una famiglia Marinello. E una signora, e mi faceva l'amministratore, andavo a cambiare anche le lampadine, mi facevano prestare una scala alta del Disco Rosso, così ne mettevo neanche in conto. E cosa che succede? Che mi dice questa signora: devo sposare mia figlia, vorrei mettere dei vetri bocciardati, delle cose sulle vanoscale, sui tre finestre delle vanoscale. E se si può fare, sì, penso, se siete in due famiglie, perché sotto via uno studio, io e l'ingegnere non, e perciò cambiamo subito. E la lascio e vado su da Tonon, e Tonon che telefona in quello, telefona la signora, che telefona la signora, che dice: ma sì, signora, fa bene, anzi è giusto qua e là, ma Nino, se vuol farlo che lo faccia, Nino non spendo soldi per cosa là, perché era che fosse l'altra che era, ma perché? Perché quando che sono sentato successo sono sempre Giorgio Tonon, Gigi Tonon. E mi ricorderò, mi interessa essere geometra, architetto, no, mi sono Giorgio Fantini, sempre io dico, e ripeto sempre Giorgio, ora tutti sei che mi sono carino, questo qua sei che avvicinarsi, ma Tonon era un alpin, fra parentesi, insomma, e il mio gare che ha la carta stampata, trovava da su un treno, carta del mio sì e sento, e mega stampata e cose dei nozze. Mano. Perché io che ho ricordi bene, insomma. Bellissimo. Dopo così Remigio Forcoin. Ah, Forcoin, sì. Daci Castello, sì. Cioè, quello che ha fatto il Cagnan, che ha fatto il Corio. Una storia di Treviso, un personaggio in senso bello, in senso cattivo, ma sempre bello, insomma, un personaggio, insomma. Hanno detto che quando ho fatto questo libro qua, ho fatto l'elogio dei gay. Perché che ne sia anche tre, no, ma anzi, non cinque, sì, nessuna discriminazione, sì, nessuna discriminazione per me. So. E che sei invece professionisti come Alfredo Marchiol, che abitava a Vicente Miglia, che aveva una tosa, che no, se il profumo dopo una settimana che era, mi sono messo una volta insieme Alfredo Marchiolo, mio datore di lavoro al ritorno dal Canada, grande dopo, personaggio Turno Ferrarese, tutti che era tanti insomma belli. La Rosetta Gamboni, che c'era Gambarotto cosa, che vendeva frutta davanti alle biccherie, con un banchetto che era sempre cotto, una costea di gambe fora grosse, con i calzettoni e cose, e vendeva frutta e ti diceva a se star che c'è un cuore, veniva toro quando quasi fresca, ma tanto è un'altra roba. E era la nostra mamma. Un senso stesso. Proprio di... Dopo che sei l'ho riscaseato, che sei assiorato, Assiorade, mamma di Caseato, sì, in Porta dello Scuro, anziana insieme col cameriere, col Vendramin, è meravigliosa la vecchia signora Biasin Campeol, cioè la mamma di Ado Campeol, insieme col cameriere, Vittorio Sbarra, che è una roba meravigliosa, che è il giudice Lavalle, mio che al tempo là che ho fatto una alla casa a lui. E lui dice, no, non voglio in giacca e cravatta, voglio cotone. Era se camminato da mettersi. Bellissimo. Ma il Casellato. Parliamo di Loris Rugbista. Sì, rugbista ante, rugbista, insomma, il tempo prima di noi altri, tutto. Sì. Franco. Allora mi confondo con un Casellato, trilaureato, morto di recente. No, trilaureato, no, sempre sì. Loris che gli ha acciappato tre lauree. Ma è morto più da 10 anni, Franco è morto a 5 anni, suo fratello. Allora Loris, sicuramente, Loris, perché questo ha iniziato a 63 anni, praticamente, in 10 anni, 3 lauree. Era matto, storia, economia e cinese. Per forza, dopo gli dava già 20 cose che li conosciuti, dopo gli dava. Dopo che c'è Kirigin, che quando era ex sindaco di Casamarca, presidente di Casamarca, giusto. Che c'è Nino Bosio, con l'Aurelio, con sua sorella Bosio, quello che aveva il bar. Pasticcere, sì. Sì, che buono, paste buone. Pasticcere, era la nerina dell'Oca Bianca. Nerina dell'Oca Bianca, anche un altro nome conosciuto. Nerina, dopo che era Mirko Trevisanello, Fini e fotografo. Quello del pesce, no? No, Mirko Trevisanello era un giornalista, Aldo Pacciara, quello del pesce. Ah, ho capito. Aldo Pacciara. Cochecchi Pacciara, che era suo zio, che chiamava il putaniere. Ma non era perché a parola di a casa chiusa gli era innamorata. Precisiamo a favore di. Se telefonava uno e mi diceva parla Trevisanello, se fosse la giornalista. Mazzarolli, che avevo suo, che mi ha fatto fotografie sul studio con la sua fascia da sindaco. Ma ha detto, fa sempre una fotografia in bicicletta, perché io veniva sempre in bicicletta. Beh, quindi Marino non insegna niente, insomma, l'attuale sindaco di Roma. No, sta a copiare Mazzarolli. Giuliana Dal Bocca lavorava in comune, Gasper, due sorelle Rizzo. Gasper, Luciano Gasper. Sì, Luciano Gasper, pittore e segnatore. Due sorelle Rizzo, che dopo che ho fotografato ne ho più viste. Ah. Turno Ferrarese, Marchiol. Lovenio. Alfredo Marchiol? Sì, Lovenio. Questa copertina qua... e i Buranelli, dove che c'è un tappezziere. Ma c'è un fratello di Alfredo Aramis Beltrame, che c'è Tony Pontello, che era il re del carnevale. E questo qua c'è il mio fuori fotografie, facendo qua la camata, che c'è adesso il dirigente Paronde del Bar Beltrame, e che mi nuovo su questa foto qua, con altre foto, sì. Donatonieri, robe storie, da Rimo Vitale, cioè, sul libro francese, che c'è questa cosa qua. Bellissimo. Nino, dopo che c'è un pugiatore che era, che chiamiamo Loco, che era Marcuccio, Loco Marcuccio, vendeva oche. Loco Marcuccio. Beh, uno spirito di trevisanità proprio, che più di questo non si può proprio. Aldo Pacciara. Aldo Pacciara è quello della pescheria, no? La pescheria. Direi che potremmo intanto ascoltare un'altra canzone. Una canzone cantata da Nicola Di Bari, L'ultimo romantico. l'ultimo. Sono io l'ultimo romantico. Sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami l'ultimo. L'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare è il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci sono già tante cose che stanno cambiando, l'amore non può. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi sulla piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché il mare ed il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci sono già tante cose che stanno cambiando, l'amore non può. Ed ecco che siamo di nuovo in studio con il nostro amico Giorgio per l'ultima tranche di questi ricordi trevisani che veramente suscitano una messe proprio come posso dire, sentimenti così, di misti proprio di nostalgia, sorrisi e compagnia. Il discorso era che la piazza racchiudeva e accentrava, ma racchiudeva anche la città. Un microcosmo. Il microcosmo era cioè, chi i giovani non passavano a piazza, perché noi siamo arrivati là perché Besolin, il nostro presidente del rugby, aveva una bottega di inizi degli altri domestici in piazza Esperia, viveva là in piazza Vico San Michele, perciò aveva tutti gli amici da piazza. Anche su questo libro qua, uno di quei dei signori e signori mette uno staff a fotografare a me, perché quando chi mi ha fotografato sempre andava male, e mi è sempre giù. Mi mette a fotografare Checca Busato, mediatore di maiale, di Porsei era, il quale è la persona che ha attirato questa ragazza, l'ha fermata, l'ha portata in piazza. L'ha fatta conoscere ai suoi amici. La famosa Cristofoletto. Non esisteva Cristofoletto. Cristofoletto era. I nomi erano tutti altri nomi. Al Biffi, qua è Ciccio Cameriera del Biffi, che è un buon testimone. Ma i personaggi trevigiani erano tutti quelli da piazza. Una volta uno ha detto. panchea da piazza a mega rovinata, perché a mega portata sta sempre sentata qua in piazza. Siamo tutti riconoscibili, quindi insomma, gente vera, gente sanguigna. Comunque, no, hanno detto che la piazza non è più quella di una volta adesso. Beh, si è tutto trasformato. Ma una volta c'era veramente questo spirito proprio anche salace, così. Noi che eravamo in piazza ci sentavamo fino alle 3-4 di mattina, dove notte, nei gradini del monumento della Teresona. A Teresona, sì. Ed eravamo segnalati in questura, nottambuli non molesti. No, sta a dirmi, questa non l'avevo da Trevisani, ma nottambuli non molesti, perché ogni tanto, una volta Romeo Dotto sono a casa che porta fuori una tizia che mi mangia tutta roba che prepara sua mamma. Ecco, questo non potrebbe più succedere, niente, non succede più niente, che c'è un bel locale là, una osteria in vico Broi, che dove si mangia una bella fritta di mortadella. Però capisco anche il recupero delle tradizioni trevisane, il motivo di questo recupero. Non so, Spuaccetti. Il Cocco, il battitore del Bremio, i giocatori di carte, gli erano fanatici, non so come che facesse sparare, perché li ceppava tutti. Mamma mia. E dopo che aveva sempre un orologio a farti vedere, guarda che bello, attenti, o porti a casa, te mi ho pagato. Come si chiamava di cognome? Ortica. Ortica. Tu pensa che razza di personaggi che avevamo. Sì, ma me lo ricordo. Poliseni, sì. Di Piazza, allora, Poliseni, che presentiamo un altro in Tosa. E io va a Parigi con sta Tosa. E aveva Peugeot e che dice Sandor, che è questo libro, accompagnami, dopo te mi porti in giro la macchina, accompagnami all'aeroporto. Io invece di portarla in giro, se venivo a Jesu, perché eravamo a Jesu e non altri, quando sono tornato a casa e se ne sta senza benzina. E gli ha raccontato la benzina da sera fino a Treviso, sto poco Lazzarone di Caia qua. E lo sono tolto amico, cioè, se no, perché gacciamà. Perché oltretutto è gatrovana da misianetta c'è di plastica, che pensando fosse benzina, invece era acqua. Penso, e ha fatto un panà e ora l'abbiamo portato a casa. Questo era Piero Puccini, andatevi a dare le cose. Dopo Piero Bora. Non conosco. Bora, Piero Bora, quello dei borsi. Lui era un personaggio, anche quello, impastava soldi a interessi alti, basta. Ma insomma, ma era un personaggio della piazza, tutta la piazza era vissuta nel vero, nel vero senso, sì. Praticamente. Dopo vero che il fotografo Fini, che è un personaggio, vero che... Dopo che era qui di fiori e di funghi, l'altro giorno mi sono andato a portare delle carte alla Beppina di fiori che c'è davanti Coin, e mi ha dato un cesto, così era tutto aperto, dei funghi del Monteo, dei ciodetti del Monteo. Bene. Non stava a darmi, dimmi quando te volte ti compro. No, già partì per io, perché io fa... Insomma, gli ho dato tre basi, neanche do come a francese, perché c'erano i primi e gli ultimi che mangiarono del Montello ormai. Ascolta, insomma. Ma il fotografo molto noto era qui Leandro, no? Era Leandro, sì. Sì, ma ne era di fotografi, sì. Ma strano, perché tutti quanti, mi trova archivio, dice, mi domandavo per i camerieri, mi trova archivio, e tutti spariti. E niente. Dei fotografi, dicevo appunto che questo mio amico Francesco Moretti aveva imparato a bevere, qualche ombra di vin con me, e con il suo Treviso, che tocca essere una città meravigliosa, perché io probabilmente che riportasti i libri a Treviso. Proprio lo spirito connaturato con i luoghi, probabilmente. Dopo, che sei anche un prete, perché sei il notaio, amico, tutti quelli che conoscevo, Don Girotto, sono andato a parlo. Sì. Personaggi, sa, che non arrivavo in vescovado, i preti di Madonna Granda, che mi conoscevo, di Sant'Andrea, tutti quelli che così praticavi vicini di me, cioè, era Sant'Andrea, Don Canuto mio conosco di vista, ma non mi conoscevo dei trevisani, sì. Don Canuto Ecco, gli oblati, sono andato a trovare gli oblati. Sì, no, no, siccome era parroco a Sant'Andrea anche lui. Sì, ma ancora prima, ancora prima. Don Liberale Baldo, no, forse era San Martino. San Martino era Don Liberale, sono San Martino che le sigava, come facevamo i segreti. Ecco, figura ieratica proprio. Sì, e Sant'Andrea, sì, lei era, perché la parrocchia era Santa Maria Maggiore e Sant'Andrea. Però la via di mezzo è San Leonardo, ora no, ci troviamo a San Leonardo con tutti gli amici e giochiamo il baion di fronte sul portone e ci parliamo sempre su parole. Troppo forte. Dopo così meraviglioso Toei, perché Toei Toei ne insegna tutto, no, altri, a me perlomeno, insomma, a me ancora quando giocavo a rugby ha dato una maglia d'oro a Battaglini che li va a portare al Crall a Santa Bona. È andato a trovare Coppi nel 56 in Svizzera e si è caputato per terra e ha detto: voglio parlare con Coppi, non te puoi parlare con Coppi, non te puoi, mi voglio parlare con Coppi. E ora segno fuori a Cavanna e mi contattò, Cavanna all'Orbo, il massaggiatore di Coppi, e dice: ma cosa vuoi da Coppi? Ma non ti ricordi di me a Treviso? Sì, sì, dimmi cosa vuoi. Escape a tornare a casa. Hai capito che abbiamo i mondiali a Zurigo. Che personaggi che avevamo. Però la prima volta a Toese venivo via con un attimo, ho fatto una partita nel 55 ottobre a Roma. E io se venivo fino a Firenze perché andavo a comprare libri. Con la maglia numero 1 sulla schiena perché gli piaceva il baion. E dopo tornando a casa andavo a salutarlo e mi dice: vieni qua, compra sto quadro, nuovo skate, ho in scassiera d'agosto, una settimana che durava 3.000, e dice: ciappa qua, dammi a me il quadro, guardo il quadro, anche bello, un masso di fiori, di chi sia sto pittore, guarda, manca, e mi fa: spora, manca la firma. Ayara di Ambrogio, poi conosco Ambrogio, mi dice: manca, io ho firmato appena viro, manca. E cosa mi si è comprato? Omicioi, robe, tassinari, cassinari. Tiziano dei bambini sotto la loggia dei Cavalieri. Adesso quello non lo ricordo. La loggia dei Cavalieri è in Sulsa. Ho un progetto adesso che forse ho accennato lì, che mi un tabellone, forse aver Treviso come casi. Mostrare le nostre eccellenze, le nostre priorità, quello che avevamo, che venga fuori un tabellone luminoso. Questa è una cosa che, sì, sulla quale io conto molto. Sì, ma perché l'aria, Gino Taranto, c'è per qua, leggi sto libro, c'è, mi diceva, e dopo lo portavo. Sì. Anche a mio padre aveva tanti libri a casa, dai russi, che per me erano pesanti, ma che leggevo da Dostoevskij a cosa. Ma io mi dava il libro da me per come sindaco. È la loggia di Cavalieri, e era una piccola città con Tiziano, con i giocattoli e qualcosa. Sì. Uno che aveva dei pappagai e che aveva un geonghe così, che era sulla cosa che aveva di animali. Dopo che era a Moyer di Gino Taranto, che vendeva anche le strassette verso. Verso la strada, per capirsi, sì. E là era una isola felice, Torso Campaner, il papà di Tiziano era Torso Campaner, gli chiamava Campaner perché è di cosa della fiera. Ma quanti personaggi! Ma è una carrellata proprio di memorie, di ricordi. Ma la roba è... Ciccio Borsato, per esempio, era sarto. Sì, che aveva il negozio lì in Calmaggiore. Sì. No, verso Zanetti aveva il negozio, no? E Zanetti dove era, no? Zanetti era verso, insomma, no? E via, Borsato dopo, era, sì, a metà, ma là era il negozio di moda, invece sto qua era Borsato, cugino sarto, suo, sì, sarto. Sì, sì, ho capito. Abitava in Calmaggiore, dove abitava anche Alfredo Beltrame e suori faceva Porchetta, nell'ultimo piano. Mamma, che buona Porchetta Beltrame. Benissimo, benissimo, adesso non si può più farla, adesso, perché io che odio Luis. Non si può più farla Porchetta. Dobbiamo trarre delle conclusioni così molto veloci, anche perché siamo proprio in fase di chiusura. Dispiace, ma noi contiamo su una prossima. Beh, deve ancora finire di parlarci di tante cose. Decisamente, certo. No, noi diciamo che lo incapariamo, dicono dalle nostre parti. Dopo le feste è accaparrato. Va bene, dopo le feste ci sentiamo. Sì, perché fino alle feste siamo... diciamo che pieni, siamo al completo. Però siamo al completo. Niente, noi vogliamo completo. Ringraziare proprio l'amico Giorgio qui per una carrellata di ricordi che è una cosa veramente straordinaria. Siamo una storia di noi altri. Esatto, questa è l'essenza proprio della travisanità. Di ogni fotografia bisogna riscrivere qualcosa. Io credo che sarebbe opportuno cominciare proprio a farlo. Io non sono trevigiana, però col lavoro che ho fatto li conosco tutti questi personaggi. Bene. E ho piacere. Ecco. Allora, piacere. Caro Giorgio, grazie Giorgio di tutto. E alla prossima volta. Un saluto affettuoso a tutti, a domenica prossima. Ma Dio piacendo, e come sempre, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.